Una buona serata dalla voce di Marco Gravelli, inizia il consueto appuntamento dalle 20 alle 21 su Rock FM con Hard and Heavy, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Come sempre anche per quest'oggi pronta la scaletta grazie al nostro autore Simone. Seconda parte, vi avviso, del nostro spazio di quest'oggi. La prima sarà dedicata a diverse novità, la seconda proporremo in concomitanza con l'uscita del nuovo album degli Aerion l'intervista che abbiamo effettuato un po' di tempo fa con il leader, colui che praticamente da anni ha lanciato questo progetto musicale. Luke Hassan sarà con noi nella seconda parte e ascolteremo in anteprima alcune tracce da questo album. Ma iniziamo con gli Indigo Dine. Uscito questo mese, questo progetto ideato dal boss della Frontiers Record, Serafino Perugino, che ruota attorno alla cantante cilena Gisa Vachki, che ha collaborato con grandi nomi quali Andrea Bocelli, Placido Domingo, Luis Miguel, Meatloaf, adesso non sorridete, che a completare la formazione sono intervenuti Fabrizio Grossi, che ha già lavorato per Glenn Hughes e Steve Vai, al basso, alle chitarre Tommy Tenander, alle tastiere Jamie Terramo, alla batteria il grande John Macaluso, ex Riot e Malmsteen, presenti come special guest Michael Kiske, ex Halloween, Mark Bowles, ex Ring of Fire, Malmsteen e da poco Nero Alant. Ed è proprio con Mark Bowles alla voce come special guest che andiamo a proporre questo brano che si intitola Superman. voce femminile è della cantante cilena Gisa Bachki. La voce maschile come special guest presente in due brani è Mark Bowles per il progetto Indigo Dine, che è uscito un mesetto fa. Abbiamo proposto le note di questa Superman, l'album si intitola Breathing Water. Altra voce femminile che va a caratterizzare la band americana, se non sbaglio dal Texas, dei Benedictum, che già avevano ben impressionato con l'album d'esordio dal titolo Uncreation. Questo nuovo lavoro si intitola Season of Tragedy, vede l'ingresso in lineup di un nuovo batterista. Ci sono 10 brani in totale, compresa una cover, ve l'ho citata, non l'abbiamo ancora ascoltata, magari arriverà anche quel giorno, di Ball to the Walls degli Accept. Oggi ascoltiamo un brano firmato da loro, si intitola Hell Shock, l'album è Season of Tragedy, sono i Benedictum. Someone to watch over me, like molto aggressivi con il loro sound, la voce femminile, quella di Veronica Freeman, che insieme al chitarrista Pete Wells hanno creato questi Benedictum. Secondo album, Season of Tragedy, era Hell Shock. Li abbandoniamo per un altro progetto che uscirà questa settimana. Si chiama Lackery, nuova band che arriva dalla Svezia, composta da quattro elementi e creata dall'ex bassista degli Arch Enemy, cioè Martin Baxton, con i quali ha inciso il secondo album Stigmata nel 98 e aver suonato nel primo album degli Armageddon nel 97. Per quanto riguarda questi Lackery, lo nascono nel 2004 quando Martin creò il gruppo, ma al contrario di quanto faceva negli Arch Enemy, non suona il basso ma canta e suona la chitarra. Il resto della formazione è completato appunto da chitarrista, bassista, entrambi ex Moonlight, e dal batterista dei Dragon Throne. Registrano due demo ed è grazie al secondo che hanno ottenuto un contratto con la Metal Heaven, etichetta discografica che ne pubblica questo Violator, che esce questa settimana. Si compone di 11 tracce. Noi andiamo a proporvi questa Hero of the Night. Someone's burning. Gamma Ray hanno filmato lo show che si è tenuto a Barcellona per inserirlo all'interno del rimandato DVD Live, la cui uscita era prevista per quest'anno. I Catamania, black metal band finlandese, hanno detto che il loro prossimo album in studio si intitolerà semplicemente 8, scritto in numero romano, e prossimamente entreranno in studio per le registrazioni. Nei Megadeth, improvviso cambio di line-up, sostituzione del chitarrista Glenn Drover a favore di Chris Broderick, che ha già suonato per i Jack Panzer e Nevermore. Gli australiani Airborne, che sono molto simili agli AC/DC, il loro brano Stand Up for Rock'n'Roll è stato scelto come tema ufficiale per la Royal Rumble 2008 del wrestling, canzone che è estratta dal loro secondo album Running Wild, uscito solo in... per il mercato australiano, verrà pubblicato dalla Roadrunner in Europa a marzo. Katra, questo è il nome di una nuova gothic metal band finlandese del cantato femminile, ad opera di un'altra affascinante fanciulla che si chiama Katra Solopuro ed è anche il leader del gruppo. La band, che ha all'attivo l'album d'esordio cantato solo in lingua finlandese, riregistrerà l'album in lingua inglese con due bonus track e loro ripubblicherà in Europa a metà di quest'anno. Dragon Hammer, la band romana con all'attivo due buoni album in studio, si è separata dal tastierista. Pertanto, chi fosse interessato, visto che stanno cercando un nuovo tastierista, potete inviare il vostro materiale all'indirizzo email message@dragonhammer.com. Veniamo a parlare dei Moonspell e di riflesso degli Enemy of Sun. Gothic metal band portoghese ha reso noto il titolo del prossimo album, sarà Night Eternal. Le registrazioni sono già cominciate presso gli studi danesi Hunt Farm con il produttore Tue Madsen. Attualmente per l'uscita si parla del mese di maggio. Intanto il loro storico produttore Valdemar Sorikta è uscito con un nuovo album di un nuovo progetto, gli Enemy of Sun. L'album si intitola Ombre, ovvero sia Shadows, e oggi ve li proponiamo proprio con questo brano che si intitola Leaves Based on Conflicts. Sing his will, piles of bodies to The Sun, il nome della formazione, dall'album intitolato appunto Shadow. Abbiamo ritrovato le note di questa canzone che si intitola Leaves Based on Conflict. Passiamo al prossimo progetto creato dal chitarrista George Bellas, al quale si aggiungono il cantante Jonathan Marshall ed in seguito il batterista Sasha Horn. Si tratta di un concept album, il gruppo si chiama Palace Terrace, esce per l'etichetta Lion Music, quindi andiamo in Spagna come etichetta. Il concept, vi dicevo, si presenta a livello musicale come del buon prog rock a tratti neoclassico. L'album si intitola Flying Through Infinity e prevede 10 tracce. Noi andiamo ad ascoltare questa che si intitola Lights Fall Down Palace Terrace. hugged the wife and drove to work today. It was only a few miles. Was in no hurry, but the lights were changing up ahead, so I stepped on the gas. I checked my Mac, I left it on overnight, downloading all the latest files. Peer to peer, the torrent flows into my lap, and I disconnect. Il 25 gennaio uscirà questo nuovo doppio CD dal titolo 01011101. Il titolo potrebbe sembrare la data del primo giorno del nuovo millennio o la lettera Y nel codice binario. Puoi descriverci il concept? It's the second. Sì, è il secondo significato. Sostanzialmente è il seguito del mio terzo album Into the Electric Castle, basato su un alieno chiamato Forever, che viveva sul pianeta Y e che aveva fatto un esperimento sugli umani per testare le loro emozioni. Questa volta, in questo album, abbiamo dato un'occhiata a questo pianeta e cerchiamo di capire come mai gli alieni hanno perso le loro emozioni. Riguardo la musica, ci sono particolari differenze con il precedente lavoro? Io penso di sì. Penso che quest'album sia più oscuro ed anche i testi più misteriosi. È un album più difficile del precedente. Pensi che sia un album che richiede molti ascolti? La prima volta che l'ho ascoltato ho pensato che non andava bene. La seconda volta ho pensato che era interessante. Ma la terza volta che l'ho riascoltato ho pensato che andava benissimo. È un grande ed unico lavoro, non solo musica, ma anche la storia, la copertina. Tutto va valutato nell'insieme. È una specie di avventura. Sarebbe fantastico poterne trarre un film. Se George Lucas o Spielberg sono all'ascolto, mi possono mandare una mail. They can give me an email. Sei considerato il padrone dei concept album e degli special guest. Potresti descriverci come è nato il nuovo album e che cosa ti ha ispirato? La prima cosa che ho ascoltato è stato Jesus Christ Superstar negli anni 60, che è la miglior rock opera che io conosca e mi sento molto vicino ad essa, è fantastica. Successivamente l'album The Wall dei Pink Floyd, oppure Tommy degli Who, l'album Operation Mindcrime dei Queensry e molti concept album progressive. And a lot of the progressive concept albums. Riguardo la formazione, quando deve uscire un nuovo album degli Aerion, c'è molta curiosità sugli ospiti. Questa volta hai giocato con questa curiosità, facendo ascoltare i samples delle voci sul tuo sito. Ci puoi riassumere la squadra stellare che hai organizzato e come li hai contattati? Sì, è vero, è stato molto divertente. Per gli ospiti sono ben 25 e dietro la chiamata di ognuno di essi c'è una propria storia. Alcuni di loro mi avevano mandato i loro CD, altri li ho controllati da solo sulle loro pagine MySpace in internet ed alcuni di essi mi erano stati richiesti dai miei fan che mi mandavano molte email suggerendomi ascolta questo, ascolta quest'altro, ascolta quello. È molto importante la partecipazione dei fan e volevo che anche loro fossero una parte del lavoro. E c'è anche qualche musicista che ha rifiutato? Oh yeah, always. Eh sì, sempre può accadere. O perché non hanno tempo, o perché non gli piace la musica, oppure gli piace la musica, ma non è il loro genere. Come ad esempio Steve Wilson dei Porcupine Tree. Loves my music, but he said it's prog, you know, and I don't really like that. In Olanda ci sono quattro ottime cantanti. Simone degli Epica, Floor degli After Forever, Anneke ex The Gathering e Sharon dei Within Temptation. Ne hai assunte tre di loro. Sharon l'avevo già avuta nel mio terzo album, così in pratica ho avuto tutte quelle che tu hai citato. Sharon ha cantato nel terzo album Into Electric Castle nel 1998, quando all'epoca non era ancora così famosa. Così è stato, diciamo, una specie di inizio. Remember all the love they gave me in this. Per quanto riguarda le registrazioni, è stato un intero lavoro in studio o ti sei avvalso di scambi di file MP3 con diversi musicisti? Ho sempre invitato tutti i singoli musicisti nei miei studi ed anche a loro è piaciuto il fatto di essere nel mio studio. È stato molto spontaneo, poiché ci incontravamo per la prima volta e non avevano mai cantato le canzoni prima. Perciò c'è stato un qualcosa di magico, come sempre. Inoltre, sono io a scegliere il cantante giusto per la canzone che ho scritto e non viceversa. Infatti, prima scrivo i testi e poi scelgo il cantante. L'album sarà disponibile in 3 edizioni, Regular Edition, Special Edition, Deluxe Limited Edition. Ci puoi dire qualcosa riguardo di queste uscite? The regular is a normal double CD. The special edition is a box and it has the double CD and the DVD. Then there's the deluxe or the limited edition. La regular edition è quella normale in doppio CD. La special edition è un box con il doppio CD e un DVD. Ed infine la deluxe limited edition, in numero davvero limitato, da 10 a 20.000 copie al massimo, in una bella confezione slim case con un libretto di 36 pagine. Il DVD contiene il making of dell'album, circa 25 minuti del dietro le scene in studio. In passato c'ero io che parlavo ed era noioso, pertanto questa volta sono i cantanti che parlano e ci sono anche interviste ai cantanti stessi. C'è anche un film di 7 minuti creato con il computer per la traccia Beneath the Waves e poi la registrazione di una parte di batteria e dei bloopers. And there is a recording of the drums and there's 6 bonus tracks and there's bloopers where you hear this singer's going wrong, which is funny always. Hai pensato di scegliere una traccia per un eventuale singolo? I hate it. No, davvero odio farlo, poiché nessuna canzone può rappresentare l'intero album. Abbiamo registrato il video del brano Beneath the Waves, che dura ben 7 minuti, e quindi non credo che verrà trasmessa. Nel trailer dell'album ci sono 3 domande. L'ultima chiede: dove stiamo andando? Forse Aerion, che è il menestrello cieco del primo album, The Final Experiment, ha la risposta. Ad ogni modo, dove credi che la società stia andando? Well, on my album it's not very good, I'm afraid. We're all gonna die at 2084. But nel mio album la risposta non è molto buona e mi dispiace, poiché moriremo nel 2084. Ma questo è nel mio album, deve ancora accadere. Ma io penso che se continuiamo così, con la tecnologia e la sovrappopolazione, diventerà sempre più dura. And that's, it's gonna get harder and harder. Hai pubblicato 8 album in studio come Aerion. Avere tutti i cantanti insieme è impossibile. Hai mai pensato, almeno per una sola serata, avere diversi cantanti per registrare un DVD? It's very impossible. Well, the first problem... Molto difficile, poiché per prima cosa non li potrei mai avere tutti insieme per una notte. E secondo, perché non potrebbero rimanere una sola sera, ma occorrerebbero un paio di settimane per realizzare lo show. Pertanto è impossibile. Ho suonato dal vivo per 15 volte con le mie band e preferisco registrare comunque gli album in studio. Poiché è la prima volta che ti abbiamo in intervista, facciamo un viaggio indietro nel tempo. Come è nato il progetto Aerion? Mi sembra fosse il 1993, mentre la prima pubblicazione è stata nel 1995. Non ho trovato tanto difficoltà nel creare questo progetto, quanto nel vendere, perché era il periodo del grunge, dei Nirvana, eccetera. Io invece proponevo un'opera progressive metal e la gente mi diceva che ero completamente pazzo. Invece ho cominciato a vendere 10.000 copie, quindi 20.000, 30.000, 40.000. Insomma, avevo cominciato a vendere. C'era una folla invisibile alla quale piaceva davvero la mia musica e questa follia c'è ancora. Così, tutto questo mi ha sorpreso molto. Con il progetto Aerion hai coinvolto molti eccellenti musicisti. Se tu dovessi creare una band dei sogni con un cantante, un bassista e così via, chi sceglieresti? Mi dispiace, ma molti di loro sono morti. Possono andare bene lo stesso? I would have John Bonham on drums. He's dead. I would have Phil Lynott on bass. He's dead. I would have John Lennon singing. Drummer John Bonham or Cozy Powell. Keyboards. Keyboards Keith Emerson. Keith Emerson. And second guitar. He's still alive. Steve Vai, Richie Blackmore, or Gilmore, David Gilmore. Hard to choose. Grazie ancora di essere stato con noi. Spero di rivederti la prossima volta in occasione di una prossima pubblicazione di un altro lavoro. Questo uscirà il 25 gennaio. A proposito, c'è altro materiale che non ha trovato spazio in quest'album? When I do an Aerion, No, quando realizzo un album degli Aerion, metto tutto quello che ho composto e quando lo pubblico rimango senza più nessun materiale. Anche se ho composto materiale per 3 CD, pubblico 3 CD. Sono un professionista e tutto deve essere perfetto al 100%. Thank you very much. Okay, you're welcome. Okay, thank you very much. Bye. Okay. Bye. Bye bye. Yeah.